timori sul, diciamo, difficoltà dell'euro seria non ce ne sono tanto più dopo le nuove strutture per gestire queste situazioni eventuali di crisi che sono state create e che sono fra l'altro in corso di utilizzo nel caso specifico dell'Irlanda in questo momento, come lo sono state per la Grecia. Quindi l'euro è difeso e più tutto è una moneta che riflette un'economia molto solida e che peraltro in generale sappiamo bene, dati anche di oggi, che è in ripresa ed in crescita, con un'economia industriale e finanziaria fra le più forti al mondo, forse la più forte. Poi voglio dire, se guardiamo anche i prezzi di mercato, cosa a cui noi non guardiamo, diciamo, in maniera spot, ma come tendenze, abbiamo ancora una moneta che fa il 34-35% di premio sul dollaro, quindi o sono tutti pazzi. Esatto, sono d'accordo con lei. Siamo in chiusura, l'effetto domino invece? L'effetto domino, come dicevo all'inizio, è sempre possibile se non ci sono contromisure. Il problema è un problema di giusta posizione fra forze che spingono una direzione e forze che intervengono. Cioè l'Europa dovrebbe fare un po' come ha fatto l'America, che far capire, come accade già con la Grecia, che tanto non si fa saltare l'Irlanda, e quindi chi sta speculando si brucia le penne. Lei dice con azioni però di intervento anche di politica economica oltre che monetaria, cioè mettendo i soldi.